Olè, bentornati su Radio Wombat nel nostro spazio informativo settimanale, dove prendiamo un po' spunto da quello che è uscito nella stampa riguardo agli eventi della settimana e proviamo un po' a commentarli e a dare la nostra visione sugli avvenimenti. Oggi purtroppo il mio abituale compagno di letture non è potuto venire, quindi mi dispiace deludervi, ma ascolterete soprattutto la mia voce. E anche se ho un compagno misterioso che voi dovrete indovinare chi è, e che metterà solo musica depressa per tutta la durata della trasmissione. Così è più facile intuire. Cioè, buongiorno a tutti comunque. Che chi indovina vince una caramella che può venire a ritirare alla misteriosa tana del Wombat quando scoprirete dov'è. Ok, partiamo con un po' di musica e poi iniziamo con gli eventi. Settimana ricca di avvenimenti, ci sarà tanto di cui parlare. Verità è che qui nessuno ci capisce più niente, e chi afferma il contrario mente spudoratamente. Ci nascondiamo dietro parole più grosse delle nostre mani e ci inventiamo schemi e costruiamo piani, ma è un trucco, è un modo per lavarci la coscienza e digerire tutta sta violenza. Che qui più passa il tempo e più ce n'ho abbastanza della vita, del mondo, della gente e di tutta la sua arroganza. Ognuno che se pensa, ognuno che se crede, ognuno che parla e bla bla in nome di qualche fede, con questa strana propensione ad annientarci e farci del male, con questa assurda vita da sfogare senza imparare mai nulla, rinchiusi nella bolla, milioni di discorsi per ritrovarsi soli fra la folla, in mezzo a facce aliene e sotto un sole che come la verità non ci appartiene. La verità è solo una cazzata, la verità è tutta quanta una stronzata, è la più grossa menzogna inventata da quando l'umanità è stata generata. La verità è tutta una cazzata, la verità è solamente una stronzata, è la più grossa menzogna inventata da quando l'umanità è nata. La verità è che non la so la verità, qua accuso sempre peggio e capisco sempre meno la realtà. Sto perso nell'estrema confusione, con un retrogusto di metallo in bocca, addosso un senso di insoddisfazione, come se tutto ciò che cerco non bastasse, è come se ogni passo che faccio poi non avvicinasse, con la ragione sempre più lontana, io vengo da altre galassie e so che la verità non è umana. In questa terra che ci sorride con la sua abbondanza, e la certezza che qui ci uccide la speranza, è la dolcezza che è andata a farsi fottere e la consapevolezza che ormai non c'è più niente per cui combattere, soltanto scuse da inventarci, parabole di idee, di teorie, come appiglia e poi graffarci. Zio, che vuoi farci? Sai qual è la verità? È che vorremmo innamorarci e non ammalarci. La verità è solo una cazzata, la verità è tutta quanta una stronzata, è la più grossa menzogna inventata da quando l'umanità è stata generata. La verità è tutta una cazzata, la verità è solamente una stronzata, è la più grossa menzogna inventata da quando l'umanità è nata. E la verità è solo una stronzata, anche per noi di Wombat, che infatti vi riportiamo solo notizie accuratamente false. Iniziamo con quella che purtroppo... Assurdo, scimmie volanti e macchine... Ok, già il mio compagno di regia non si dimostra molto in forma. Ok, partiamo con purtroppo quella che è stata la notizia principale della scorsa settimana, ovvero l'omicidio di Idi Diene, ambulante senegalese che mentre lavorava a Firenze sul ponte Amerigo Vespucci, è stato ammazzato da Roberto Pirrone, un omicidio che sconvolge più che altro per la sua insensatezza. Infatti, da quanto dichiarato da Roberto Pirrone, pensionato, lui avrebbe deciso di farla finita con la vita, uccidersi da solo, e non essendosela sentita è uscito per strada sparando a sua detta al primo che passava. In realtà, anche dalle immagini che sono state analizzate dalle varie telecamere, del percorso che ha fatto Pirrone da casa sua, no? A Ponte Amerigo Vespucci, questo dimostrano le immagini che la sua vittima è stata scelta, se non accuratamente, nemmeno troppo a caso. Infatti ha scansato accuratamente altri possibili passanti col colore della pelle giusto, e quando ha trovato dei neri non ha sparato alla prima, che era una mamma con una famiglia al seguito, però ha sparato al secondo, che era appunto i Didiene. Quindi omicidio che lascia trasparire uno sfondo profondamente razzista. Partiamo leggendo un articolo di Internazionale che titola "Un paese in cui i neri vengono uccisi per strada", che quindi ci porta ad eventi di cui fortunatamente in Italia non si sente così spesso, però ricordiamo che per esempio negli Stati Uniti d'America queste sono cose che succedono quasi giornalmente, tanto da aver dato vita al movimento Black Lives Matter. L'ho detto bene? Sì, giusto, giusto. Che appunto mette di fronte la società, la comunità, all'ovvia disparità che si ha nella valutazione, nel peso delle vite, quando a venire ucciso è un nero o un bianco. Tutto questo nel 2018, quindi quando una larga parte dell'opinione pubblica comunque sostiene che il razzismo sia una cosa che appartiene semplicemente al passato, mentre i fatti ci dimostrano che così non è. Andiamo quindi a leggere Internazionale. Era sul ponte Amerigo Vespucci di Firenze a vendere ombrelli, i Didiene, 54 anni, quando è stato colpito da 6 proiettili. A sparare il pensionato Roberto Pirrone. Il giorno dopo circa 500 persone sono tornate sul ponte per chiedere indagini accurate sull'omicidio, esprimere solidarietà alla famiglia e fermare la violenza da cui la comunità straniera della città si sente minacciata. Di Didiene sappiamo poche cose. Era originario di Morola, una cittadina a 70 km da Dakar, in Senegal. Era arrivato in Italia nel 2001 in aereo con un visto turistico. Ha vissuto a Firenze per 7 anni, racconta Morti a me, un amico di Diene, con cui lui ha condiviso l'appartamento nel capoluogo fiorentino. Poi si era trasferito a Pontedera, in provincia di Pisa, e tutti i giorni faceva il pendolare con Firenze. In Senegal aveva 11 figli. Il suo sogno era tornare nel suo paese per occuparsi dell'allevamento di mucche e cavalli della sua famiglia. Era molto religioso, un punto di riferimento per la comunità senegalese di Firenze. Spesso in moschea conduceva la preghiera e si alzava alle 5 del mattino per pregare, raccontati a me. Mi ricordo il suo sorriso, la sua disponibilità, aveva poco, ma era pronto a condividerlo con tutti. Ricorda l'amico che l'ultima volta aveva scherzato su Facebook con Diene, qualche giorno prima dell'omicidio. Non riusciva a tornare in Senegal da 4 anni, perché aveva avuto problemi con il permesso di soggiorno, che aveva risolto da un mese, raccontati a me, che conclude. Non vedeva la sua famiglia da 4 anni, per me era come un padre. Non si può morire così, come una bestia, ha commentato Pap Diav, rappresentante delle comunità senegalese di Firenze, subito dopo l'omicidio. Questo omicidio è frutto del clima che c'è in Italia, ha aggiunto tracciando un elemento di continuità tra l'omicidio di Firenze e la campagna elettorale per le elezioni politiche del 4 marzo, caratterizzata da un sentimento di diffusa ostilità verso i migranti. Di tutte le persone che c'erano sul ponte, come mai ha colpito solo il nero? Non c'era solo lui. Qui un bianco ha preso una pistola e ha ucciso un nero. Dicono che non è razzismo. Che cos'è allora? Ha chiesto Diab. La procura, che indaga sul caso, ha escluso tuttavia il movente razzista per l'omicidio, accettando la versione dell'assassino. Pirrone, tipografo in pensione che aveva un regolare porto d'armi e possedeva diverse armi in casa, ha raccontato di volersi suicidare a causa di problemi economici e familiari e di aver sparato a caso contro Diene, mentre era in uno stato confusionale. La comunità senegalese della città tuttavia non accetta questa spiegazione e accusa Pirrone di aver agito con una motivazione razzista. Oppure che qualcuno mi possa sparare. Prima Macerata, ora Firenze. Per noi non è più sicuro andare in giro, afferma Saher Diop, un senegalese di Pietrasanta che vive in Italia dal 2009. Io non li chiamo razzisti, li chiamo ignoranti, perché non si chiedono chi siamo, che storia abbiamo, non ci considerano persone, aggiunge. Anche noi ci teniamo a questo paese, siamo preoccupati di quello che sta succedendo. Non è la prima volta che a Firenze un uomo spara contro gli immigrati. Era già successo il 13 dicembre 2011 a Piazza Dalmazia, quando il militante di Casa Pound, Gianluca Casseri, aveva ucciso Sam Modou e Diop Moore, due ambulanti senegalesi, e ne aveva feriti altri tre. Tratto di Ene era cugino di Sam Modou, una delle vittime, e dall'epoca dell'omicidio si occupava della vedova e di sua figlia, secondo quanto previsto da un'usanza senegalese. Mi colpisce sempre in vicende come questa, che avvengono in contesti come quello di Firenze, che non farebbero pensare all'ostilità verso gli immigrati, spiega Dagmavi Imer, regista italo-etiope che ha realizzato il documentario Va pensiero sulla strage di Firenze del 2011. Con il regista, la comunità senegalese ha un ruolo attivo nella vita del capoluogo toscano. Sono cittadini impegnati, non sono invisibili come tanti immigrati in altre parti d'Italia, e per questo forse la loro presenza in questo momento è ancora più sgradita, perché dimostra un'integrazione riuscita di lunga data. In questo momento, e dopo Macerata ancora di più, molti pensano che eliminare un nero li possa rendere addirittura graditi agli italiani, conclude. La comunità senegalese di Firenze, molto ben organizzata e radicata, si sente colpita da quest'ultimo omicidio, spiega Anna Meli del Cospe. Per Meli, i rappresentanti delle comunità straniere in questi giorni hanno provato in tutti i modi a calmare gli animi, soprattutto dei più giovani che si sentono minacciati da attacchi come questo. Al sit-in antirazzista, il 6 marzo, ci sono stati momenti di tensione quando è intervenuto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che in un primo momento, subito dopo l'omicidio, si era rifiutato di incontrare i rappresentanti della comunità senegalese e aveva condannato il corteo di un gruppo di senegalesi che avevano distrutto fioriere e cestini della spazzatura nel centro della città. La protesta violenza di questa sera nel centro della città è assolutamente inaccettabile e sia chiaro che i violenti, di qualsiasi provenienza, non meritano giustificazioni. Vanno affidati alle forze dell'ordine e alla legge, aveva scritto Nardella sui social network, suscitando molte critiche. Non abbiamo molti dubbi sul motivo razziale dell'omicidio, nonostante quello che dice Nardella, osserva Silvia Cardini, un'insegnante fiorentina che ha partecipato alla manifestazione del 6 marzo. I ragazzi che hanno origine straniera hanno paura. Mio figlio adottivo di 16 anni, che non è nemmeno troppo politicizzato, mi ha detto che vorrebbe andarsene dall'Italia e che sabato verrà la nuova manifestazione per i Didiene. È la prima volta in vita sua che mi dice di voler partecipare a una manifestazione. Sì, quindi articolo che mette tanto, diciamo, il punto anche sulle storie personali di questi migranti, storie su cui molto spesso non ci si interroga troppo, perché infatti cioè, tutti questi migranti sono persone che comunque nel loro paese d'origine non sono nemmeno quelli che noi chiameremo proprio dei totali poveri. Infatti veniamo a sapere che Diene aveva al suo paese comunque una famiglia numerosa, aveva un allevamento di animali della famiglia, che però semplicemente la povertà assoluta in cui questi paesi versano costringono anche elementi che magari nel loro paese appartengono all'equivalente della nostra classe media a dover emigrare in Europa per cercare fortuna. Quindi una profonda cultura che comunque si nasconde dietro tutte queste vite e che molto spesso non riusciamo a vedere. E nell'articolo veniva anche accennato alla reazione che c'è stata subito dopo, appena si è saputo dell'omicidio, e la comunità senegalese infatti ha subito reagito compatta. Questo dimostra comunque che c'è una grande compattezza all'interno della comunità stessa, se subito sono riusciti a portare in piazza così tante persone. Compattezza è comunque è venuta subito meno nelle ore successive all'omicidio, quando infatti al presidio c'è stata una componente più giovanile che ha insistito nel esprimere, sfogare tutta la sua rabbia che covava legittimamente, ha dato vita a una manifestazione selvaggia per le vie del centro, manifestazione selvaggia che tanto ha scandalizzato tutte le menti dei ben pensanti italiani, tanto che siamo arrivati veramente a cose di bassissimo livello che fanno dubitare della dignità stessa delle persone che hanno espresso determinate opinioni, primo fra tutti il sindaco Nardella, da cui un post Facebook che abbiamo citato in parte, si evince quasi un'equiparazione tra i danni puramente a oggetti causati dalla manifestazione di lunedì sera con l'omicidio, quasi che se una comunità rabbiosa perché a sangue freddo è stato ucciso uno dei suoi membri passasse automaticamente dalla parte del torto nel momento in cui rompe un oggetto di arredo urbano. E, per proseguire nella cronaca della settimana abbiamo anche nominato il presidio che c'è stato martedì pomeriggio, a cui c'è stata numerosa partecipazione, a cui il sindaco Nardella è stato duramente contestato, principalmente per il fatto che il giorno prima non ha tempestivamente risposto ai fatti e in un primo momento non ha incontrato i rappresentanti della comunità senegalese e si è rifiutato di concedere subito il lutto cittadino, cosa che ha concesso poco prima della manifestazione di sabato, forse per stemperare un po' i toni e perché si era reso conto di aver fatto una grandissima cazzata sul piano politico. Tra l'altro martedì, giorno in cui era stato proclamato il lutto per la morte del calciatore Davide Astori, cosa che ora io sono un grande tifoso di calcio e non voglio mettere in dubbio che la morte del capitano della Fiorentina sia stata una tragedia che ha sconvolto tutta la città e soprattutto i tifosi della Fiorentina, soprattutto in un paese come l'Italia non ci possiamo stupire se la morte di un idolo comunque seguito e magari amato da tutti desta molto più scalpore che magari la morte anche accidentale di altri calciatori, come è avvenuto comunque in questa settimana. Ricordiamo un giovane calciatore di Poggio a Caiano che si è spento in situazione analoga a quella di Davide Astori, ma non ha ovviamente causato tutto questo rumore, o soprattutto all'omicidio, anche se insensato, di un ambulante nero. Però ovviamente se sappiamo che c'è un razzismo abbastanza dilagante e comunque un doppio pesismo abbastanza netto nella popolazione civile, quando questo doppio pesismo viene praticato anche dalle istituzioni, quando il razzismo viene quindi istituzionalizzato, la cosa è molto più grave, è molto più preoccupante e sicuramente i responsabili politici di questo non possono aspettarsi di venire a fare passerella durante un momento di cordoglio, di rabbia, ma anche di rivendicazione di determinati diritti, e tentare di passarla liscia. E il sindaco infatti è stato contestato duramente, soprattutto a parole, è volato anche qualche sputacchio. E leggiamo brevemente l'articolo di InfoOut sullo sputacchio a Nardella. Nardella dichiara: dobbiamo stare attenti a non fare razzismo al contrario. Già abbiamo avuto le fioriere divelte in centro. E questa è l'ultima dichiarazione di Nardella, motivando la decisione di negare la giornata di lutto cittadino per i DDN. Sarebbe pericoloso questo razzismo al contrario, che pretende dare lo stesso valore di un giocatore della Fiorentina alla vita di un lavoratore nero. Sarebbe pericoloso. hanno già divelto le fioriere e hanno anche sputato in faccia al sindaco. Dopo lo sputo ricevuto da Nardella sul ponte Vespucci, mentre decine di senegalesi contestavano la sua presenza alla manifestazione contro il razzismo, le reazioni non sono tardate ad arrivare. A parlare sono stati quelli che non hanno bisogno di rompere una fioriera per prendere parola nei titoloni dei principali giornali italiani. Gli basta essere quello che sono, ricoprire un certo ruolo ed essere sempre pronti a dire le cose giuste. Dopo poche ore è arrivata la solidarietà di tutto il mondo politico, anche di quello che non aveva speso una parola sull'omicidio razzista sul ponte Vespucci. La CISL ha definito lo sputo un gesto inaccettabile. Sgomento in vicinanza, invece, è stata espressa da Confcommercio. L'invito generale è a lavorare per mobilitare il mondo politico e civile e raffreddare gli animi. Sono loro il mondo civile, sono loro che decidono chi sta dentro e chi sta fuori e quindi chi ha diritto alla parola, alla rabbia, allo sgomento, alla paura, al lutto. Lunedì e martedì in strada c'erano i barbari. Il ciuffo di Nardella, colpito da uno sputo, ha colpito questa società civile più delle due fioriere rotte nelle vie dello shopping di lusso. E due fioriere rotte l'hanno sconvolta più della morte di un lavoratore nero freddato con sei colpi di pistola. È un fatto di ordine di valore, di gerarchia e di importanza, un fatto di ordine, da preservare. Non è vero che Idi non sarebbe mai andato in via Calzaiolo a fare shopping e non avrebbe mai votato alle prossime amministrative? La preoccupazione per questo mondo civile, dove la civiltà si misura sui conti in banca e sul posizionamento nella gerarchia di potere istituzionale, è molto semplice: diventare essi stessi un bersaglio. Parliamone in autobus, con i colleghi al lavoro, nelle scuole, e poi diciamoci la verità. A nessuno gliene frega un cazzo di queste maledette fioriere e lo sputo sul ciuffo di Nardella ha strappato un sorriso soddisfatto a gran parte di questa città. Quindi, nonostante il decoro urbano venga sempre messo prima anche di questioni di ordine politico, venga quasi usato per neutralizzare qualsiasi rivendicazione di carattere politico, seguendo una retorica a cui ormai ci siamo abituati, in cui ovvero i modi della protesta sono molto più importanti dei contenuti, e qualsiasi rivendicazione politica passa in secondo piano se nel manifestarla si esce anche solo un minimo da quello che ti è concesso da parte di chi governa, quasi a dire che ok, potete protestare, però dovete farlo per quello che diciamo noi e come lo diciamo noi. Quindi proprio dire, ok, protestate pure, tanto non ce ne frega un cazzo. E, tra l'altro c'è uno scoop dell'ultima ora, perché c'è un giornale neonato di Firenze, La Fazione Firenze, nato da una costola della nazione, giornalisti che si sono staccati, che hanno dato vita a questo giornale secessionista, che sono usciti con questo scoop, sono riusciti a intervistare in esclusiva l'autore dello sputo a Nardella, che ha confessato: ero uscito di casa con l'intenzione di sputarmi in faccia da solo, poi non ho avuto il coraggio, così ho sputato in faccia al primo che mi è passato davanti. Casualmente questo qualcuno era il sindaco, però è stato scelto a caso, non è stato un episodio di razzismo istituzionale, possiamo non dirlo. Credo. Comunque le telecamere nel caso faranno giustizia. Dire anche in questo caso. Seguite questo giornale su Facebook, La Fazione Firenze, che crediamo che sia molto più onesto e veritiero del suo corrispettivo istituzionale. E va bene, per proseguire nella cronaca di questa lunga settimana, arriviamo alla manifestazione di sabato, in cui la città ha reagito molto bene. Infatti 15.000 persone sono scese in piazza contro il razzismo, alta l'affluenza della comunità senegalese da tutta Italia. Leggiamo brevemente l'articolo del manifesto dove viene commentata la manifestazione, anche se crediamo che non ce ne sia molto bisogno, perché sicuramente se ci ascoltate sabato eravate in piazza. E basta razzismo, basta razzismo, con questo simpatico accento che di un po' forse di origini francofone che i senegalesi hanno tirato fuori nello scandire questi slogan. I tantissimi senegalesi in corteo lo ritmano lungo tutto il percorso, restituendo senso una volta tanto alle parole. Si manifesta per i Didiene e, come hanno chiesto le associazioni dei senegalesi di Toscana, questo vuole essere un ricordo doloroso di una persona cara, ma anche un'affermazione collettiva del rifiuto dell'incitamento all'odio nei confronti dei migranti e rifugiati, che ha caratterizzato in modo marcato il dibattito pubblico nell'ultimo anno. Per certo è un fiume intergenerazionale arcobaleno, quello che invade Piazza Santa Maria Novella, Via dei Fossi, Lungarni, Vespucci e Solderini, il Ponte alla Carraia e il Ponte Vespucci. Sfilano in molti più di 10.000, numero della questura, e tutti sanno bene che nessuno potrà riportare in vita i Didiene. Ma essere qui può aiutare a combattere il razzismo, che si è dichiarato strisciante poco conta, ormai sdoganato da forza che con la parola d'ordine del primo agli italiani portano migliaia di loro a essere eletti dal popolo in Parlamento e negli enti locali. Quell'uomo l'ha studiato, quasi urla un senegalese ai microfoni di Radio Popolare, parlando dell'omicidio. Lui quel giorno ha incontrato 1 milione di persone e poi ha sparato a un nero. Salvini, io ti vedo tutte le volte al telegiornale, tu parli solo male degli africani, questi sono i risultati. Agli angoli del Ponte Vespucci, attaccato sul muro, un volantino racconta l'Italia di oggi vista con gli occhi di un migrante. Cari fratelli e sorelle italiane, se avete fame oggi, se siete senza lavoro, se siete diventati poveri, noi neri, noi africani, non siamo colpevoli. Non siamo responsabili delle vostre rogne. Cercate i responsabili da Sarkozy a Berlusconi. Alleati hanno bombardato la Libia e il resto dell'Africa. Se le vostre bombe cadessero in Italia, cosa fareste? Dov'era la colpa del povero Idi? Il fatto di essere nero? Essere nero è reato in Italia. Basta. La manifestazione è stata in forza fino a venerdì. Anche questo è toccato vedere, dopo che la parola razzismo è stato tabù per giorni, sindaco Nardella in testa. Invece, dal direttore degli Uffizi erano arrivate parole sensate. Se qualcuno spara palottole contro qualcun altro che ha la pelle di colore diverso, avendo incontrato prima anche altre persone, è chiaro che si tratta almeno di razzismo subliminale. Questo è ovviamente inaccettabile e va debellato, così come il razzismo manifesto e proclamato. È stato un corteo talmente civile che a Nardella, anche lui in marcia, è stato dedicato solo un graffiante striscione, Gesù Fioriera. Ora, qua ci tocca smentire il manifesto perché Nardella si è affacciato in piazza, ben scortato, e poi se n'è andato, non ha partecipato alla marcia. Anzi, qualcuno forse insinua che si è affacciato in Piazza Santa Maria Novella perché era in pensiero per le aiole nuove, sì, per controllare che nessuno le calpestasse. Sì, e posso citare almeno un altro striscione che comunque sia... parlava di Nardella, che era Nardella imbucato, per l'appunto. E vabbè, l'articolo possiamo anche chiuderlo qui perché si conclude solo con una lunga lista dei rappresentanti più o meno istituzionali che hanno partecipato, di cui a noi non interessa molto. E il corteo è venuto molto bene, a me sinceramente è piaciuto, e l'unica cosa forse è stato a livello numerico, benché importante la partecipazione, comunque inferiore a quello che c'è stato a Macerata, sì. Cosa che secondo me è un po' grave, anche questa è anche una critica che voglio rivolgere a chi si era molto speso nel fare pullman per raggiungere la manifestazione di Macerata, perché anche se quello di Macerata era un fatto di razzismo esplicito, dove infatti a sparare era stato un aperto simpatizzante fascista, candidato alla Lega Nord, che aveva tatuato in testa il simbolo di terza posizione, partito eversivo neofascista degli anni 70. Però c'è una cosa che, cioè, per quanto puoi fare un lavoro buono, secondo me, sulla società, è sempre possibile che ci siano 100 fascisti che vanno a fare cose del genere, per quanto grave sia. In questo caso si tratta appunto di razzismo subliminale, di razzismo radicato nelle persone, di fascismo che non viene espresso quotidianamente, giorno giorno, di fascismo che non è dichiarato ma cova sotto la pelle finché sfocia in questi episodi. Quindi secondo me è molto più grave, e la reazione a questo, a mio parere, avrebbe dovuto essere ancora maggiore, ancora più decisa, rispetto ai fatti di Macerata. E il mancato diciamo la mancata valutazione, l'errata valutazione dell'importanza di questi due momenti, forse anche spinto dal fatto che si era un po' annacquato il clima di tensione che era stato provocato soprattutto dall'avvicinamento dell'appuntamento elettorale, secondo me è qualcosa su cui i compagni del movimento italiano dovrebbero un po' riflettere, sì, perché anche in questo caso forse ci siamo fatti dettare l'agenda più che da noi stessi, da quello che scrivevano i giornali, e questo è un fatto di subalternità culturale e mediatica su cui sicuramente vale la pena di riflettere. Ok, ho parlato tantissimo, non ho più voce, magari mettiamo un po' di musica e poi passiamo a parlare delle altre notizie della settimana. Bentornati col suono della mia fastidiosissima voce. Torniamo a parlare delle notizie della settimana. Arriviamo, cambiamo argomento e comunque sempre di lotte parliamo. Andiamo a vedere cosa è successo l'8 marzo, 8 marzo, come tutti voi sapete, giornata di lotta per i diritti delle donne, diritti, le rivendicazioni politiche. Diritti è sempre una parola un po' scivolosa, sì, però in questo caso ci sembra di poterla usare. E leggiamo da InfoOut quello che è successo. Oggi 8 marzo ovviamente, come esattamente un anno fa, è sciopero globale femminista. Quest'anno sono circa 70 i paesi nel mondo in cui le donne hanno aderito alla giornata, o meglio, l'hanno costruita. Qui in Italia le scuole, la sanità e i servizi, i trasporti urbani e ferroviari, gli aeroporti saranno i settori maggiormente coinvolti nello sciopero. Blocchi e cortei si riverseranno nelle città per rendere ancora più visibile e congestionante l'assenza del lavoro produttivo e riproduttivo. L'8 marzo non aveva in sé niente di scontato. Solo attraverso un processo di riappropriazione ha riacquisito un senso, nell'ottica di rifiuto di un ruolo sociale ed economico imposto e subordinato. Era una giornata di festa in cui la donna è ancora una volta oggetto, per un giorno, della disponibilità maschile e istituzionale a concedere uno spazio e qualche gentilezza. Questa viene rovesciata per diventare una giornata di lotta. Una rinuncia sincera a tutti convenevoli per sovvertire un equilibrio che si mantiene calpestando i nostri lutti e le nostre identità. Tra lo scorso 8 marzo a oggi non c'è qualcosa che si è fermato o sospeso. Se uno sciopero delle donne femminista è possibile, è grazie alla connessione costante fra questo spirito e i contesti in cui come donne viviamo, lavoriamo e lottiamo. Nessuno ha organizzato questo sciopero per le donne e anzi le risposte dei sindacati non sono state per la maggior parte all'altezza della sfida che queste hanno lanciato. Ma cosa avranno da protestare? Ribaltiamo la domanda. C'è qualcosa per cui dovremo sentirci valorizzate o riscattate? Scioperiamo dal lavoro produttivo, perché donne sono il terreno su cui si sperimentano continuamente nuove forme di estrazione di capacità e risorse, su cui si rafforza e riproduce un sistema di subordinazione di genere e lo si estende. Le violenze e le molestie sul lavoro, la precarietà e la ricattabilità sono un mezzo infallibile per far sì che questo sistema continui a esistere e allo stesso tempo le sue immediate manifestazioni. Aggredire questo terreno comune ci permette di andare a fondo e oltre l'esperienza di vertenzialità per una mobilitazione trasversale ma di classe. Scioperiamo dal lavoro riproduttivo. Il tempo delle donne e la loro esistenza sono costretti e impiegati a rendere possibile la vita degli altri, la produttività degli altri, lo sfruttamento degli altri. Tutto il lavoro in casa, la cura dei figli e della famiglia, la sfera affettiva impegnata nell'andare avanti sono date per scontate. Anche questo è il lavoro. Scioperiamo dai ruoli imposti dai generi. Il nostro ruolo imposto è soprattutto quello sociale, produttivo e riproduttivo. Ci sarà sempre qualche uomo che penserà di sapere meglio come essere una donna, perché in fondo non siamo noi ad ora a determinarlo. Quel grosso dito che indica tutto quello che potrebbe mettere in pericolo l'identità e il predominio indiscusso dell'uomo bianco eterosessuale oggi verrà puntato da noi. Partendo da noi, queste cose ci appartengono. Lavori senza contratto, con part-time a tempo pieno ma a metà dello stipendio, condizioni a lavoro inaccettabili, molestie, scorrettezze per metterci in competizione con la collega con cui dividiamo il lavoro, subiamo gli sfratti, sole con dei figli andiamo alla rincorsa di soluzioni ma gli assistenti sociali ci colpevolizzano. Per questo l'8 marzo è sciopero. Che questo era il comunicato con cui è stata chiamata la giornata. Questo invece è un altro breve comunicato scritto alla fine della giornata. Sono stati alla fine più di 150 i paesi investiti dallo sciopero internazionale, molti di più di quelli che avevano aderito formalmente, quindi. Come annunciato, per tutta la giornata in Italia i trasporti non sono stati garantiti a causa dell'alta adesione allo sciopero di questo settore. Circa 40 le città in Italia in cui, oltre allo sciopero, ci sono stati cortei e iniziative, con un'alta partecipazione e una forte determinazione. Mobilitazioni anche nelle università, nelle scuole e nelle piazze hanno occupato l'intera giornata. Le manifestazioni più imponenti sono viste a Roma, Milano, Napoli. Ovunque i cortei hanno superato le aspettative, testimoniando come la spinta della mobilitazione femminista sia sempre intensa. A Torino un giovane, Loris, è in stato d'arresto dopo un presidio di protesta contro le politiche colpevolizzanti degli assistenti sociali, mentre le donne e i partecipanti al presidio cercavano di raggiungere il resto della manifestazione sono state bloccate, spintonate e inseguite dalla polizia, senza che ci fosse un reale motivo se non l'intenzione di segnare un'ostilità verso questa giornata di lotta dalle parole così chiare. A Bologna oltre 10.000 persone hanno sfilato per la città dopo aver risposto alle provocazioni della consigliera leghista Borgonzoni, che voleva unirsi alla piazza. Non c'è spazio per le ambiguità e per le strumentalità. Questo movimento l'ha dimostrato più di una volta, come in occasione della mobilitazione di Verona, in cui il corteo di donne ha dovuto rispondere alle provocazioni poliziesche e delle istituzioni che volevano, all'ultimo, un pezzo di percorso per il corteo. Decisioni arbitrarie che rispondono alle reazioni scomposte di un apparato istituzionale, conscio di non controllare un movimento che ha superato molteplici apparati di cattura nella sua istanza e nella sua capacità mobilitativa contro l'ordine dominante. A Pisa, un corteo di oltre 1.000 donne ha sfilato fino alla torre, consolidando l'eredità delle due occupazioni femministe cittadine nate dopo l'8 marzo dell'anno scorso. Scusate. A Firenze le iniziative studentesche del mattino hanno accompagnato il corteo pomeridiano. E proprio su queste iniziative studentesche a cui abbiamo partecipato anche noi vorremmo soffermarci, perché se infatti il corteo del pomeriggio è stato bello e partecipato, però secondo me molto valore hanno il blocco della didattica messo in atto al liceo Machiavelli Capponi, dove è attivo un forte collettivo di studentesse medie femminista, che aiutato anche dai corrispettivi maschietti del collettivo scolastico, sono riusciti a bloccare la didattica per mettere il dito nella piaga delle discriminazioni sessuali anche nel posto dove forse queste discriminazioni sono più sensibili, ovvero le scuole, dove appunto viene costruita quella che sarà la forza lavoro della società di domani. Quindi hanno posto tutta una serie di rivendicazioni e poi hanno sfilato in corteo selvaggio per il quartiere di San Frediano, dove questo liceo è situato. Tanto ci sono stati anche dei momenti molto carini alla manifestazione, dove un gruppo di maschietti che possiamo rubricare come aspiranti maschi alfa, cioè ultra della Fiorentina, che volevano andare al funerale del capitano, sono stati bloccati per una decina di minuti in una via e hanno provato prima ovviamente a imporsi con la prepotenza, strombazzando e minacciando di investire il corteo se non venivano fatti passare. Alla forte risposta del corteo si sono chetati e sono dovuti accodare, e forse per una decina di minuti hanno dovuto riflettere sul loro ruolo nella società, che non è così dominante come questi credevano. Il pomeriggio, tra l'altro, prima del concentramento in Piazza Santissima Annunziata, lo stesso collettivo Spire ha sanzionato con della vernice rosa shocking la sede della Nazione, colpevole ogni mattina di riempire i bar della città di Firenze con editoriali e articoli decisamente sessisti e discriminanti. Ok, per l'8 marzo questo è tutto. Ora magari chiederei al nostro fono di mettere un po' di musica, perché devo assolutamente bere un bicchiere d'acqua. Assolutamente. E torniamo subito dopo questa breve pausa parlando di quello che sta succedendo in Kurdistan, dove purtroppo la situazione ci giungono delle news non proprio favorevoli. Anzi. A tra poco. Metro, metro, con 1.500 lire, con 1.500 lire, con 1.500 lire, metro, metro, con 1500 lire. Con 1500 lire. Con 1500 lire. Tempo fa dentro una Gran Milan, un po' di amici in coro planando qua e là, quando dici la musica. Un giro sulle balle del Toro dove sta il Duomo, l'unica possibilità che avevo, arrivo lì e provo. Vagabondo in cerca di fortuna, musicante con la testa piena di sogni che ogni notte più note raduna. Curo la follia di un visionario cantando sotto la luna, muovo la poesia dentro lo svario che ci accomuna. Un mondo passa, l'amore suona, un treno parte, ci stai dentro e ti senti da zona a zona, poi sai come funziona, parti o arrivi alla fine dei conti, la partita è sempre una. Stesso viaggio, discesa e salita, la solita insalata, oggi pare più salata, un altro giorno che ti saluta, sei dentro ogni gesto di questa vita, per ogni gesto di questa vita. Metro, metro, con 1500 lire. Con 1500 lire. Con 1500 lire. Metro, metro, con 1500 lire. Con 1500 lire. Con 1500 lire. Amici, amici su amici, ma a me ci penso da me. Mi riavvio come il Pici che ci tiene in contatto sul tagli e cuci. Se non va riformato, ma prima salvo di brutto. Soci, seguaci del seguici, se guai ci sono, è solo un altro atto. Se qui ci sei, qui non ci fai, se arrivi qui resti in contatto. Dal piatto un botto di screci che quagli, questione di tatto. Situazione di serietà, ma non metto nel time serie A. Io con la barra di netto e la precisione sui tagli che ci tiene svegli. Per ogni novità che cogli, sono il singolo effetto. La felicità in un ritratto, la musicalità mi sorride nel tutto. Per questo sono dove sono e vado verso dove vado. Per questo non smetto, per questo mi alleno con il mio modo. Per il resto è da mo' che non mi illudo, mi basta quello che so. E quello che so resta di fatto in quello che ho. Metro, metro, con 1500 lire. Con 1500 lire. 500 lire. Metro, metro, con 1500 lire. Con 1500 lire. Con 1500 lire. Bentornati, andiamo quindi a leggere le ultime notizie che ci arrivano dal fronte di Afrin, della guerra civile siriana, e fronte dove dal 20 gennaio si combatte tra l'esercito turco e le forze dell'esercito democratico della Siria del Nord, che è l'esercito della rivoluzione confederale guidata dai curdi, dagli arabi, dalla moltitudine di etnie che abita la Siria del Nord, che è riuscita a ritagliarsi un metodo di vita e di sviluppo veramente democratico e veramente rivoluzionario in quella che è la guerra civile siriana. Questa rivoluzione è ora sotto attacco, è stata sotto attacco da parte dei jihadisti ed è ora sotto attacco da parte della Turchia, che è il secondo esercito della NATO e, come ricordiamo, è alleata dell'Italia, che tra l'altro vende alla Turchia un sacco di armi a produzione italiana. Quindi il massacro di Afrin si sta svolgendo anche con la complicità e con gli interessi economici dell'Italia. Leggiamo da Contropiano, il massacro di Afrin e il silenzio dell'Occidente. Si profila un disastro ad Afrin. Nelle scorse settimane le difese delle YPG kurde, accompagnate dalle forze di difesa nazionale legate al governo siriano, sono rapidamente collassate di fronte all'avanzata dell'esercito turco e dei suoi proxy, nonché di fronte ai martellamenti dell'aviazione di Ankara, portati nell'ambito dell'operazione Ramo di Ulivo, con lo scopo di rimuovere il cosiddetto cantone di Afrin, a guida del ramo siriano del PKK. Attualmente le forze filo-turco si trovano alle porte di Afrin, 800 metri secondo alcune fonti, 2 km secondo altre, e sono sul punto di dividere in due la sacca in mani curde. Al momento la situazione non sembra avere sbocchi. Si avvicina una battaglia urbana sanguinosa con le forze filo-turche in netto vantaggio di uomini e mezzi. A nulla sono valsi rinforzi giunti a migliaia da Afrin dalle altre aree che le SDF controllano per conto degli USA. Tale afflusso nel nord-ovest del paese di miliziani delle YPG, fra l'altro, hanno costretto nei giorni scorsi i comandi militari yankee a dichiarare che la fase offensiva della battaglia contro l'ISIS nelle aree orientali della Siria è sospesa per mancanza di uomini. Si è trattato della prima missione aperta da parte della coalizione a guida USA, che le YPG sono in pratica l'unica forza militare efficace nell'ambito delle SDF, cosa che tutto il mondo sapeva, ma per l'appunto non era mai stata ammessa apertamente per salvare le forme nei rapporti con la Turchia. A nulla è valso anche il limitatissimo accordo con il governo di Damasco, che ha portato allo schieramento ad Afrin delle NDF, milizie che, essendo forze popolari per lo più volontarie, non parte integrante dell'esercito siriano, sono state colpite dall'aviazione turca senza alcuna remora. Vediamo ora come procederà la battaglia urbana. Come considerazione a contorno, si può dire che la Turchia sta riuscendo a sfruttare la situazione di isolamento politico del cantone di Afrin, colpito in un momento in cui i rapporti tra l'YPG e l'AS Siria-Russia erano ai minimi termini. Nella battaglia nella provincia di Deir ez-Zor, infatti, le milizie curde si sono legate strettamente agli interessi strategici degli USA, conquistando ai danni degli ISIS quasi tutti i giacimenti petroliferi situati a est dell'Eufrate e rivendicati dall'esercito siriano, che è stato costretto ad attestarsi sulla riva occidentale del grande fiume. Ciò, evidentemente, nella convinzione mal riposta che questo servizio reso agli USA sarebbe stato ricambiato con la protezione del cantone di Afrin, da mesi nelle mire turche. Tuttavia, come prevedibile, il Pentagono ha fatto orecchie da mercante ed ha abbandonato Afrin col pretesto dell'assenza dei miliziani dell'ISIS nell'area. Non di meno la Russia, anche a causa di quanto accaduto a Deir ez-Zor, ha anch'essa privilegiato i rapporti con la Turchia, con cui aveva in piedi gli accordi sulla de-escalation zone, e ha dato il disco verde all'operazione Ramo di Ulivo, impedendo probabilmente anche un più vasto accordo fra Damasco e le autorità di Afrin. Così, un'area che era stata toccata relativamente poco dalla guerra e che, quindi, era tra l'altro il rifugio di centinaia di migliaia di profughi, rischia di passare di mano dal modello progressista e democratico delle YPG all'oscurantismo islamista delle milizie filo-turche, che andrebbero a ricongiungersi con i commilitoni, i quali già controllano il triangolo Abab, Azaz, Jarablus, dalla precedente operazione militare turca Scudo dell'Eufrate. Il rafforzamento di tali milizie, duramente colpite nei mesi precedenti dalle vittorie dell'esercito siriano a nord di Hama e nella parte sud-orientale della provincia di Idlib e, in generale, dell'area di influenza turca, potrebbero, tra l'altro, alimentare le ambizioni smisurate di Ankara e prolungare ulteriormente la guerra. Si tratta, pertanto, di un vero disastro che, stando alle dichiarazioni del presidente Erdogan, potrebbe estendersi alla città di Manbij, prossimo obiettivo dichiarato. Per quel che riguarda Manbij, non è chiaro se nell'area vi sia una presenza militare americana a fare da potenziale deterrente. Tuttavia, stando alle dichiarazioni ufficiali del Pentagono, l'alleanza con le SDF riguarda esclusivamente le aree situate sulla sponda orientale dell'Eufrate, quindi nemmeno Manbij. Al netto di ciò, riporre speranze nell'alleato, come si è visto, non garantisce alcuna protezione sicura alle YPG, né a est né a ovest dell'Eufrate, aggiungiamo noi. Pertanto l'alternativa sarebbe, anche in questo caso, implementare un più largo accordo di coesistenza con Damasco, che dovrebbe prevedere una qualche forma di condivisione del potere nell'area di Manbij e il collocamento di soldati dell'esercito siriano sul confine con la Turchia, al fine di togliere ad Ankara il pretesto del pericolo terrorista sul confine e di poter svolgere una funzione di deterrenza più ampia rispetto a quelle che stanno svolgendo le NDF ad Afrin. Tale opzione converrebbe, ovviamente, anche a Damasco e forse anche alla Russia, la quale, concessa Afrin, potrebbe non avere voglia di alimentare eccessivamente gli appetiti neo-ottomani. Tuttavia, al momento non parla più probabile. Intanto sull'altro fronte caldo, ovvero l'ex area di de-escalation del Ghuto orientale che Damasco e Mosca hanno deciso di porre interamente sotto il controllo dell'esercito siriano, le forze Tigre stanno rapidamente avanzando e sono riuscite a dividere in due la sacca jihadista, dove le formazioni salafite sotto egida delle potenze straniere Arar al-Sham, Failaq al-Rahman, Jaish al-Islam e altre collaborano con i terroristi riconosciuti di Hayat Tahrir al-Sham, ex al-Nusra, e continuano a bersagliare il centro della capitale con colpi di mortaio e ad impedire la fruizione dei corridoi umanitari ai civili in fuga. Anche qui si approssima una dura battaglia urbana e i media occidentali, a fronte del sostanziale silenzio su Afrin, sono pieni di report che accusano Damasco di ogni sorta di atrocità, comprese le ormai trite e ritrite menzogne sull'utilizzo di armi chimiche che ci accompagnano ormai dal 2013. E, sì, come detto, sicuramente la situazione ad Afrin non è delle migliori. E, per chi volesse vedere con i propri occhi qual è la situazione, consigliamo questo sito che forse già altre volte avevamo riportato, che si chiama SyrianCivilWarMap.com, che è una mappa interattiva molto carina dove sono riportati gli ultimi eventi della guerra civile siriana. E da Afrin, dove sono presenti anche combattenti italiani, e giunge questo report alla mobilitazione, sì, che andiamo a leggere. Alla mobilitazione che ora vi leggo. Nelle ultime ore la situazione ad Afrin si è fatta più critica. L'esercito turco invasore e le bande jihadiste sue alleate si sono avvicinate alla città da diversi lati, in particolare dalla direzione di Shera. Sono a 2,5 chilometri di distanza e minacciano direttamente la città. La situazione dentro Afrin è quella che c'era già in questi giorni, quindi alta densità di popolazione, tanti rifugiati dai villaggi che qui hanno trovato rifugio dalla guerra e dai bombardamenti, mancanza di acqua perché quando i jihadisti e l'esercito turco hanno preso la diga di Meindanki, hanno tagliato la fornitura e bombardato le stazioni di pompaggio in altri villaggi. Mancano anche alcuni generi di prima necessità. Adesso il rischio concreto è che nelle prossime ore ci sia una situazione sempre più critica e che attacchino la città. Già in questo momento ci sono bombardamenti di artiglieria e di aerei nelle zone periferiche della città. Il Tevdem ha chiamato a una mobilitazione generale, a una sollevazione in tutti i posti e le piazze del mondo per difendere Afrin, per fermare il progetto di pulizia etnica che Erdogan e i jihadisti vogliono attuare sulla popolazione di Afrin, per chiedere una no-fly zone che fermi i bombardamenti aerei, che sono anche quelli che causano un numero elevatissimo di vittime civili e che, in questa città, che se in questa città dovessero aumentare ancora e arrivare fino in centro, produrrebbero sicuramente un massacro. Queste azioni sono già in essere in molte città europee, anche in Bashur. Adesso quello che bisogna fare è rompere il silenzio della comunità internazionale, che di fatto è complice con questo piano. Questo è quello che a tutti i popoli del mondo viene chiesto di fare per sostenere Afrin e la sua popolazione, per sopportare la rivoluzione della Siria del Nord e quindi la speranza e l'esempio della rivoluzione del nostro secolo, per una società libera e democratica in cui tanti popoli diversi possano vivere assieme e che sia anche una proposta di pace per la Siria, una sollevazione per difendere Afrin, ma anche per difendere la speranza per tutta l'umanità. Afrin, 10 marzo 2018. Bene, in risposta a questa chiamata sono state chiamate iniziative in tutta Italia e non solo. Per quello che riguarda Firenze, il coordinamento toscano per il Kurdistan ha chiamato un presidio alle 17 davanti alla RAI. Non mi ricordo l'indirizzo, è su Lungarno. Più o meno del, Lungarno dove del finisce Tempio, Lungarno Colombo. No, Lungarno Colombo. Okay. Dovrebbe essere una traversa che collega via Retina a Lungarno Colombo. Comunque, se avete a disposizione un accesso a internet, basta cercarlo e si trova. Ora comunque. Il nostro tecnico sta cercando informazioni più precise. Se volete vedere il Largo video... Largo Alcide De Gasperi 1, Firenze. Ok. Se volete vedere il video che ha mandato il corrispondente di InfoOut da Afrin, andate sul sito di InfoOut. Siamo contenti di vedere che sta bene, gli mandiamo un abbraccio e ci auguriamo che possa rientrare il prima possibile in Italia. E ci vediamo tutti oggi al presidio. Mettiamo un ultimo pezzo e poi andiamo sulle considerazioni finali di questa settimana. Esco col disco ammazzo, ti ammazza la Ciro di Marzio. Te due in tele, imbraghe di tela come un talebano. Parlaci in codice a un complice cannabinoidi con polvere. Pensavi fossimo schiavi, dentro il sistema fatto per soccombere. Guarda, sta goia fra una corsa al nogre qua. Gatta, cicova, se sei sotto i sospetti del detective Conan. Roccia nevica, dai crack, evita. Fuck atletica, fans club strategica. Shut the fuck up, spegnila. Ogni roccia in zona farà scuola tutti. Tra cola Gucci, porti la droga nascosta dentro agli astuci. Non era studi, il giorno che muoio diventa vedova, Genova voglio. Una mimetica ermetica e metrica sposto. Te ne dimentica toio. Muori nel grezzo, fuori fa freddo. Infamani miei, come ti sei permesso. Palla nell'auto su quella burnout way a pallacanestro. Se mio fra mette di smettere, prende la bamba, la lascia nel cesso. Tutta Genova aliane, filigrana, cerbottana. Ruote l'arma, un'arma all'arma. La giungla, la salunga, su chi accusare. Ovi non fotti con te, bro. Nell'aria lo si sentiva, fra sui social se ne parlava. Mentre piazza già si sapeva. Jet privato dirottato sul pentagono. Tentato all'abitacolo, addestrato dal spettacolo. Rompo ogni ostacolo, che fai? Non hai un vocabolo. Parli di flow, contro te do a tenta con un tentacolo. Allevo un allievo alieno che alleno nascosto nel fieno. Fra niente meno che me dal futuro l'incarico. È tornato per avvisarmi di far sul serio. Vedremo una scena di rapper con le pezze al culo messe nel tubo di scarico. Chiamo il mio album Moglino per Marra PNL. Ma perché sono cresciuto tra bestie belve senza parete di suo parere. Tu contro di me non ti mettere. Sento tuo socio che blatera, scanna ed accelera. Ma siete cenere con una maschera. Fre così fatta che prendi e si sgretola. Muori nel grezzo, fuori fa freddo. Infamani miei, come ti sei permesso. Palla nell'auto su quella burnout way e palla canestro. Se mio fra mette di smettere, prende la bamba, la lancia nel cesso. Tutta Genova aliane, filigrana, cerbottana. Ruote l'arma, un'arma all'arma. La giungla, la salunga, su chi accusare. Ovi non fotti con te, bro. Nell'aria lo si sentiva, fre sui social se ne parlava, mentre in piazza già si sapeva. Questo per ricordarvi che questa settimana è uscito anche il nuovo disco di Tedua, che è una bomba incredibile. Se non l'avete ancora ascoltato, vi invitiamo ad ascoltarlo. Tedua è il grande cantautore del XXI secolo. Tra 20 anni chi non ha ancora capito la sua grandezza sicuramente si ricrederà e capirà quanto era indietro rispetto ai tempi. Ok, dopo questa opinione del tutto personale che non rispecchia in assoluta maniera l'opinione della redazione di Radio Wombat, anche se forse rispecchia l'opinione della critica internazionale al riguardo, torniamo a parlare brevemente, perché siamo in chiusura, della situazione italiana, che dopo le elezioni ancora non è ben chiaro quale potrebbe essere il governo che governerà l'Italia da qui a poco. Come prevedibile, ci sono state un sacco di, soprattutto di dichiarazioni, il PD si è spaccato, c'è chi vedrebbe bene un'alleanza con i 5 Stelle, chi non la vedrebbe bene, molto probabilmente è giusto quello che dice Orfini, cioè se il PD, dopo aver praticamente basato tutta la sua campagna elettorale solo contro i 5 Stelle, e questo dimostrando evidentemente che il PD è veramente un partito senza un programma politico, perché è campato per anni solo sull'anti-berlusconismo e ora ha provato a campare solo sull'anti-grillismo, e non gli è mai andata troppo bene, diciamo, se non no. Per una specie di golpe istituzionale che l'ha portato al governo negli ultimi 5 anni. Però comunque volutamente prevarrà la linea che vedrà il rifiuto di questo accordo, perché giustamente, come dice Orfini, come dice Renzi, se il PD si allea con i 5 Stelle probabilmente il PD scomparirà e alle prossime elezioni altro che 18%. L'unico articolo degno di interesse forse uscito in questa settimana sulle elezioni, sul tema delle elezioni, l'editoriale di InfoOut su reddito di cittadinanza. Forse avrete visto tutte le fake news, tutta l'ironia, soprattutto per quanto riguarda il Meridione, dove ricordiamoci 5 Stelle hanno sbancato vincendo quasi tutti i seggi, su queste fantomatiche code ai CAF per richiedere il reddito di cittadinanza, anche qui dimostrando ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che i giornali, i media sono comunque una cosa tipicamente settentrionale e ben poco rispetto hanno del Meridione d'Italia, che viene dipinto sempre come una terra di barbari e ignoranti. InfoOut titola: l'ironia sul reddito di cittadinanza è una trappola. Leggiamo. Quella che si sta giocando intorno alla questione del reddito di cittadinanza, tra pagine Facebook, articoli scoop sui CAF di Giovinazzo, livori razzisti dei produttivi contro i parassiti, non è una battaglia pensata solamente al creare immediata polemica contro le politiche economiche di un eventuale governo 5 Stelle. È soprattutto una volontà espressa politicamente e ancor di più mediaticamente da parte delle elite imprenditoriali e finanziarie nazionali, tutori delle grandi aziende e istituzioni private, che difendono i loro grossi interessi nel paese. È la volontà di screditare e rendere ridicola anche solo la possibilità di immaginare una vita slegata dall'ideologia del lavorismo, dal lavoro salariato come mezzo per ottenere un sostentamento. Si tratta di fatto di una battaglia culturale, tesa a screditare intorno ogni futura proposta di reddito universale. Si colpisce oggi per prepararsi il lavoro di domani, quando anche le retoriche suprematiste di un Salvini saranno messe KO dalle contraddizioni tra capitale e lavoro su scala globale, tra automazione e concorrenza, tra robotizzazione e flusso migrante sempre più inarrestabile, e servirà a arrivare pronti all'impatto con la realtà. Ovviamente la colpa di quanto sta avvenendo non è solamente di chi sta agendo in maniera furba, sfruttando la situazione, giocando sull'ironia di alcuni fatti sociali come i veri o presunti assedi ai CAF, ma è anche e soprattutto del 5 Stelle, la cui volontà di costruire una proposta politica sul tema del reddito di cittadinanza è animata da una prospettiva politica workfaristica che è ben diversa dall'idea di un reddito universale di base. Giocata con intelligenza, a partire dalla crisi economica che impatta soprattutto nel contesto meridionale, la proposta grillina, come ormai tutti sanno, lega l'ottenimento di quel reddito all'obbligo di accettare un lavoro, senza specificare la qualità dello stesso, proposto dai centri per l'impiego, e di avere solo due possibilità di rifiutare, pena la perdita del reddito stesso, che tra l'altro ha una durata molto breve in termini temporali. Un qualcosa che in sé potrebbe anche non dispiacere al grande capitale, che coglie però la palla al balzo per difendere tutto ciò che può e continuare la sua battaglia prima di tutto ideologica. Va sottolineato come da più parti ci siano dunque responsabilità nella reazione di questo che è un pasticcio brutto, che va a consentire una sorta di restaurazione della legittimità di un mondo fondato sul salario, sul lavoro salariato in opposizione ad uno senza dubbio migliore, in cui invece dovrebbe essere la libertà di svincolare la propria vita dal lavoro a farla da padrone. Proprio in un momento in cui a livello globale, anche da alcuni attori capitalistici, sono in corso le prime sperimentazioni di un'uscita da questo meccanismo. Pensiamo dal lato all'accordo in Germania stipulato dalla IG Metall con i suoi lavoratori, o dalle prospettive suggerite da Google, piuttosto che altre aziende high-tech della Silicon Valley, che proprio sul reddito garantito iniziano a ragionare le proprie prospettive politiche. Quanto sta succedendo in Italia sul tema dei redditi di cittadinanza è una sfida che non va dunque sottovalutata, ma anzi letta all'interno di quello che è un tentativo di restaurazione culturale e di governo dei corpi e delle vite negli anni a venire. Da parte di un capitalismo straccione, come lo definì qualcuno in passato, che non sembra disposto a mollare un centimetro. E sì, cioè il fatto che ovviamente l'Italia non sia propriamente l'avanguardia dello sviluppo capitalistico, anche se forse in passato lo è anche stata, però ora sicuramente non lo è, e dimostra quanto veramente questo asserragliarsi su posizioni ideologiche, quando molto probabilmente in altre parti del mondo si guarda proprio più che come far lavorare obbligatoriamente tutti, come mettere a profitto anche il tempo libero, esatto, delle persone. Forse ora sembra distopia, ma chissà che tra qualche anno non sia lo stesso Google o lo stesso Amazon a presentarsi alle elezioni politiche di qualche stato nazionale e magari anche a vincere. E notizia flash, perché siamo veramente stretti di tempi, è il rilancio di Torino alle Olimpiadi invernali, avallate da Grillo, che ricordiamo giocò la vittoria nel capoluogo, soprattutto a Roma, sulla sua battaglia contro le Olimpiadi, mentre ora, quando a Torino è ben saldo, rilancia questa proposta di grande opera, dimostrando ancora una volta che sempre più i 5 Stelle si stanno trasformando da partito di contestazione al sistema in partito di governo vero e proprio, e questa apertura alle grandi opere lo dimostra. Io direi di chiudere al volo, perché manca un minuto alla nostra deadline, e vi salutiamo, e come al solito ci vediamo oggi in piazza alle 5 davanti alla sede Rai, e lunedì prossimo sulle frequenze di Radio Wombat.